America, in the face of our common dangers. It's been unbelievable. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. I think that we've restored America's standing in the world, and that's confirmed by polls. I think a recent one indicated that around the world, before my election, less than half of the people. Queste insomma sono le conclusioni che pacatamente Barack Obama prova a cominciare a trarre del suo articolato complesso viaggio in Asia. Ha detto: siamo riusciti qui, come altrove intende dire, a rimettere l'America al suo posto nel mondo, a restituirle quel prestigio, quella importanza, quella autorevolezza che per buona parte del XX secolo ha avuto. È finito il viaggio in Asia di Barack Obama. Non sono, devo dire, entusiastici i commenti che lo circondano, anzi con il passare delle ore, man mano che si comincia, come dire, a analizzare, no, il bilancio complessivo della spedizione, quello che sembra regnare tra gli osservatori americani è più che altro un certo scetticismo. Come dire, sì, effettivamente la passerella c'è stata, Obama si è comportato bene, ha fatto bella figura, ci ha fatto fare bella figura, ma i risultati pratici sono quello che sono: molte parole, molte promesse, scambi di buone intenzioni, di propositi costruttivi, ma poi la sostanza non è granché. Ieri, nel corso della tappa coreana, nella Corea del Sud, ultima tappa del suo viaggio, Barack Obama ha incontrato il presidente coreano Lee Myung-bak. Alla fine è uscito facendo una dichiarazione particolarmente indirizzata, ben oltre i buoni rapporti con la Corea del Sud, ma indirizzata invece ai cugini cattivi della Corea del Nord. Ha detto: la cosa che voglio sottolineare è che io e il presidente Lee siamo d'accordo sul fatto di voler spezzare il modello del passato con la Corea del Nord, che si comporta provocatoriamente e poi è disposta a tornare a parlare alla fine alla ricerca di concessioni. Insomma, non vogliono più saperne di questo ping pong con la Corea del Nord. Continueremo a lavorare sulla questione nordcoreana nell'ambito dei colloqui a 6 per il disarmo nucleare completo, ha aggiunto Obama, annunciando che l'inviato americano Bosworth sarà già in Corea del Nord l'8 dicembre per questa intensificazione del lavoro diplomatico nei confronti della Corea del Nord. Ha parlato anche, nella fattispecie, ha parlato anche di una questione che non smette di essere al centro del tavolo e dei suoi lavori e dei suoi pensieri di presidente, ovvero l'Iran. Our expectation is that over the next several weeks we will be developing a package of potential steps that we could take that will indicate our seriousness to Iran. Siamo pronti a dare il segno di tutta la nostra serietà all'Iran, ha detto Barack Obama, attraverso un pacchetto di provvedimenti che nei prossimi giorni renderemo noti. In sostanza è possibile che ci siano nuove sanzioni nei confronti dell'Iran, l'Iran che non è stato in grado di dare il suo assenso e quindi in relazione all'interruzione del programma nucleare, e quindi abbiamo avviato discussioni con i nostri alleati sull'importanza di far sì che vi siano delle conseguenze. Insomma, bisogna far pagare all'Iran la non disponibilità a condurre anche in questo caso sul tavolo diplomatico delle trattative credibili. A questo punto si conclude appunto il viaggio in Oriente, soprattutto la pagina cinese forse è stata quella più contraddittoria, anche meno leggibile. Si sono sentite così parole interessanti, sicuramente una gentilezza di fondo in attesa, visto quello che era stato l'imbocco dei rapporti cino-americani all'inizio del millennio, ma non molto di più. È in volo in questo momento Barack Obama, è in volo per l'Alaska, dove fa di nuovo fermata, e di Alaska poi parliamo anche tra poco. Poi atterrerà alle 3:40 Anchorage, riparte alle 5:40 per arrivare a 5:30 alle base Andrews. Per 5:30, se possibile, per favore avvisiamo Michelle, per 5:30 Barack sarà a casa, quindi è probabile ipotizzare che lei lo attenderà sveglio, invece le bambine andranno a dormire. Ma ci abbiamo altre cose che arrivano da Washington e dintorni. We just had a big hug and my wife and he had a big hug. Grande abbraccio, c'è stato un grande abbraccio e poi molto poco altro. Questa è la realtà dei fatti dell'incontro di Barack Obama con il suo fratellastro, un altro degli episodi che hanno contraddistinto il viaggio in Asia di Obama. Si è visto con questo fratello che poi sarebbe il figlio della terza moglie di suo padre. Si erano incontrati solo un'altra volta nel corso di un viaggio di Barack Obama. Adesso, durante il passaggio in Cina, invece i due fratelli sono stati insieme, anche in questo caso per pochi minuti, anche perché comunque il fratello di Obama è in cerca di una qualche pubblicità per il libro che ha appena pubblicato, un libro nel quale peraltro, un libro biografico nel quale peraltro spende parole molto dure nei confronti del padre, che viene indicato come un uomo violento. E nell'occasione Barack Obama è stato interrogato dai giornalisti e ha confermato quanto il fratellastro, il mezzo fratello, racconta nel libro. Dice: non è un mistero che la nostra infanzia e adolescenza, insomma, per quello che ci è stato dato in dote dal destino, non sia stata perfetta e che nostro padre sia stato un uomo di eccesso, in certi casi anche pericolosi. Ma arriviamo invece a parlare, come dicevamo, di Washington e dintorni, perché si sta muovendo la grande carovana di Sarah Palin e tutta Washington guarda con attenzione. Sarah Palin ha fatto uscire il libro due giorni fa, ha cominciato ieri la promozione di Going Rogue, la sua autobiografia, è in questo momento in giro per l'America, addirittura sui giornali italiani trovate le mappe degli spostamenti di Sarah Palin, e intanto in televisione impazza la sua intervista, quella che ha rilasciato la ABC a Barbara Walters, dove, visto che il presidente è fuori, i gatti ballano. Sentite un po'. On a scale of 1 to 10 being the best, where do you rate? Se dovessi dare un voto al presidente da 1 a 10, quanto gli daresti? Chiede la Walters a Sarah. What would you do about unemployment? Gli dà un bel 4, Sara, perché dice: non mi piace come sta gestendo la cosa pubblica. E poi gli dà la sua ricetta per come le cose potrebbero essere fatte meglio. If you were president, what would you do about se diventi presidente, come le faresti le cose? E qui Sara naturalmente spezza il pane che mezza America vuole sentire spezzare da lei, ovvero: diminuirei le tasse, dice immediatamente, sosterrei le piccole imprese, non le graverei più di tasse, le chiederei alle piccole imprese di produrre di più in modo che il circolo virtuoso si rimetta in movimento e quindi ci siano più consumi, più spese. Devo dire che le reazioni degli osservatori sono state perlomeno scandalizzate. Hanno detto: beh, se era così semplice, guardate che ci avremmo già pensato. E grandi sono i dubbi, naturalmente, che continuano a circondare una eventuale corsa elettorale della Palin nel 2012. C'è sempre il problema del libro, che comunque è primo in classifica in tutte le charts librarie editoriali. Si sono raccolti un po' di pareri in circolazione e si è venuto a sapere che, per quello che riguarda Barack Obama, non lo leggerà. Spiegazione ufficiale: mi dispiace, non ho tempo. Per quello che riguarda Hillary Clinton, non lo leggerà. Spiegazione ufficiale: mi dispiace, non ha tempo neanche lei, se la cavano sempre con la stessa frase. Però Hillary ha accettato l'invito che Sarah Palin le fa arrivare dalle pagine del suo libro, nonostante le differenze. Sono due signore che contano della politica americana. E quindi, se si tratta di prendere un tè insieme, sicuramente non c'è problema. como puede ser verdad. Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, the young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Insomma, facciamo un po' di chiacchiere a proposito di Buongiorno America, no? Le cose che si vedono nella televisione americana la mattina spesso riguardano la televisione della sera prima, della sera precedente. Ieri è stata una serata appunto di anniversari, di celebrazioni, di ricordi, e se ne riparla anche in queste ore, laddove poi insomma la società dello spettacolo americano, in questo dimostra poi spesso e volentieri di essere, no, un intreccio praticamente indissolubile di spettacolo e di vita vera, e che spesso è difficile, no, distinguere i confini dove finisce l'uno e comincia l'altro. Capita ad esempio spesso, peraltro, nello show di Larry King, l'anchorman più famoso della CNN, che ieri ha dedicato la puntata del suo show notturno a rievocare un amico vero, suo personale, scomparso un paio di mesi fa, ovvero l'attore Patrick Swayze, di cui i suoni in sottofondo sicuramente vi faranno ricordare alcuni dei successi. Ed è stata una puntata certamente struggente, con la partecipazione della moglie e del fratello di Patrick Swayze, che si chiama Don e che è la copia conforme, appena più giovane di Patrick, ma la somiglianza è impressionante. È stata una trasmissione naturalmente dedicata con delicatezza alla elaborazione del lutto, a come si può continuare a vivere dopo una perdita di questo genere, al distacco, e anche i pareri offerti da quella che per 24 anni è stata la signora Schweitz sono stati particolarmente toccanti. Sentite. Every day, I love what somebody has said. Every day was like a 911 emergency. It's just, you know, you were on call 24 hours a day, ready for anything. You know, you wake up ready to fight, and it's. Si combatte insieme. Questa è la storia che la signora Schweitz racconta dei due anni circa, i 20 mesi che sono passati dal momento in cui Patrick ha saputo di essere malato di cancro al pancreas, e insieme a Lisa, la sua signora, hanno deciso di affrontare anche pubblicamente. C'è anche un libro in circolazione scritto a quattro mani appunto da Patrick e Lisa, che racconta come è stato affrontato con coraggio, con audacia, ma anche con grande decenza e dignità, il momento più difficile naturalmente nella vita di Patrick, ma anche nella vita di questa coppia. E Larry King ha gestito con sapienza questo spazio memorialistico, ma anche poi in fondo una lezione di dignità umana. Invece dalla dignità passiamo alla bellezza, perché è arrivata una di quelle cose che abbiamo sempre bisogno di sentirci dire. Alice, you're terribly late, you know, naughty. Insomma, questo che ride sotto ha vinto un'altra volta, è la seconda, ed entra in un ristretto club di vincitori due volte. Adesso vi dico di che si tratta, così finite di incavolarvi. Si tratta di Johnny Depp, che peraltro ha 46 anni, non è un ragazzino. Comunque, a 46 anni è stato eletto per la seconda volta dagli americani e da People, che è il rotocalco per antonomasia d'America, è stato eletto l'uomo più sexy che ci sia in circolazione. Aveva già vinto nel Rommel. 2003, e questo lo porta a far parte di questo ristretto gruppo di uomini più sexy che ci siano in circolazione, due volte al quadrato, di cui fanno parte lui, Brad Pitt e George Clooney, tanto per cambiare, la solita vecchia compagnia cantante. Insomma, lui ha festeggiato in modo molto così, molto asciutto, perché tanto quando sei l'uomo più sexy del mondo, più di quello che... This mass suicide was discovered here in the ancient Mayan. E qui invece non si festeggia niente, perché succede che questo 2012, la malattia del 2012, l'epidemia del 2012, insomma, questo fatto che nel 2012 le cose andranno malissimo a dir poco, ha fatto presa anche sugli americani, se è vero che 2012 il film di Roland Emmerich con John Cusack è campione di incassi assoluto anche del box office americano ed è del box office mondiale, dove ha già in un weekend messo insieme 200 milioni di dollari, quindi superando già il budget di produzione del film. Gli incassi americani sono eccellenti per la stagione, 65 milioni, si dice nei commenti entusiasti delle riviste di settore che non c'è niente di meglio per avviarsi a una florida stagione natalizia cinematografica che un ottimo catastrofico come appunto 2012. Four score and seven years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty. E oggi è un anniversario importante per gli americani, il New York Times ne parla in prima pagina, noi vogliamo aggiungersi anche una piccola indicazione, è l'anniversario, il numero 146 per la precisione, del discorso di Gettysburg, le parole più famose mai pronunciate da un americano. Abramo Lincoln pronunciò per l'appunto il 19 novembre 1863 nella terra che sarebbe stata poi bagnata dal sangue dei soldati che combattevano la guerra civile americana. Or sono 17 lustri e due anni che i nostri avi costruirono su questo continente una nuova nazione, concepita nella libertà, votata al principio che tutti gli uomini sono creati uguali. Adesso noi siamo impegnati in una grande guerra civile, la quale proverà se quella nazione o ogni altra nazione così concepita, così votata, possa a lungo perdurare. Un discorso fantastico, anche perché brevissimo, lo si legge in tre minuti, gli studenti americani lo imparano a memoria, ma se voi invece sarete turisti in America e appassionati di questa figura che non smette di stupire, che è Abramo Lincoln, io vi dico, ci sono due mostre bellissime da visitare a New York, alla New York Historical Society, su Central Park, il museo forse più interessante, più divertente di New York, al di là di quelli grandiosi, e una in particolare si chiama Lincoln and New York, e racconta questa strana storia d'amore tra la grande città e il grande uomo, una storia breve fatta di pochi episodi che vengono ricostruiti qui in modo straordinariamente intenso. A margine anche una mostra su John Brown, l'abolizionista per antonomasia, ma ne parleremo nei prossimi giorni. E andatevi sempre a rileggere o fate leggere ai vostri ragazzi il discorso di Gettysburg, ripeto, poche parole per cantarle chiare al mondo. Se ne è parlato oggi qui a Buongiorno America, io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Carmelo Lauricella, la mail è buongiornoamerica@radio24.it, la pagina Facebook è redazione Jefferson 3, andiamo in replica dopo mezzanotte, in diretta dopo l'1:30, qui su Radio 24 domani, state tutti bene.